kabali di mapopi madame yota mbamadare Allare manai ni malade ni matabali di mapopi madame yota mbamadare Allare na be ni mafajuli mbata chofe ni mafajila madame yota mbamadare Bangure wa bube ni mama mwe mama mi wata mbambarare Bambu